30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. L'allarme girato dalle autorità di La Valletta alla guardia costiera di Lampedusa è scattato all'1:10 della notte di mercoledì. Veniva segnalata una barca in difficoltà che aveva chiesto aiuto con un telefono satellitare a 39 miglia dall'isola italiana in acque maltesi. Due motovedette della Capitaneria di Porto, navigando con un mare a forza 6, hanno raggiunto il barcone alle 4:05, trovando una situazione già drammatica. Il barcone aveva una falla nello scafo, imbarcava acqua. Una motovedetta si è posizionata a ridosso della barca per proteggerla dalle onde e tentare il trasbordo, una procedura normale in questi casi, ma a questo punto il motore della carretta si è spento, probabilmente perché dell'acqua era finita nel serbatoio. Senza più governo, il barcone ha cambiato direzione, prendendo le onde non più da prua ma da fianco. Il primo effetto è stato un forte rollio che ha fatto inclinare la barca. Le prime persone sono cadute in mare, nessuna di queste probabilmente si è salvata. Una seconda ondata ha fatto il resto, facendo capovolgere il natante lungo non più di 13 metri. Gli uomini della motovedetta hanno lanciato in mare zattere salvagenti, salvando 50 naufraghi. Poco dopo è arrivato il peschereccio Cartagine della flotta di Mazara del Vallo, che è riuscita a trarne in salvo altri 3. Ancora buonasera da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Restiamo nel Mediterraneo, restiamo a sud, l'abbiamo fatto la scorsa settimana, continuiamo a farlo perché l'evidenza, diciamo, dei fatti di questo grandissimo fenomeno, drammatico fenomeno in questo caso, ci impone di continuare a ragionare. Cerchiamo di farlo andando come sempre un passo in avanti, perché da una parte è vero c'è una tragedia immensa come in questo caso, dall'altro però c'è una storia che continua, una storia che è di migrazione ma che non inizia sicuramente oggi. Mazara del Vallo, che abbiamo citato nel nostro lancio, ancora una volta la flotta dei pescherecci di Mazara è intervenuta per aiutare chi in mare appunto era in condizioni disperate e purtroppo la maggior parte di loro non ce l'hanno fatta in questa occasione. Mazara del Vallo è anche un luogo dove la sperimentazione della migrazione di fatto è una costante. Questa sera abbiamo con noi Mariano Maugeri. Buonasera Mariano. Buonasera a voi. Inviato del Sole 24 Ore, l'avrete sentito spesso eletto appunto dal fronte, e uso questo termine anche un po' eccessivo, ma forse in questo caso no, dicevo dal fronte di Lampedusa, di quello del sud e della migrazione. Allora, perché Mariano, Mazara del Vallo rappresenta un esperimento e anche un luogo su cui vale la pena che vale la pena approfondire? Perché i primi tunisini sono arrivati dopo gli anni 60, nei primi anni 70, e si sono subito, direi quasi forzosamente, integrati, perché lavoravano e lavorano tutt'oggi nella marineria di Mazara del Vallo, che è la principale marineria della Sicilia e tra le più importanti d'Italia. I tunisini, come i siciliani, sono dei pescatori, e via via nei primi anni 70 a Mazara capiscono che i giovani non vogliono seguire le orme dei padri. È un armatore con una certa inventiva, tale Giacalone, che aveva vissuto qualche periodo in Tunisia, comincia a chiamare dai borghi marinari tunisini i pescatori che aveva conosciuto. Uno dopo l'altro, oggi a Mazara vivono almeno 3.000 tunisini, molti dei quali appunto si dedicano alla pesca con i figli, le mogli. È una comunità nella comunità mazarese. Quindi vengono chiamati in un primo tempo, sì, perché come accade in molti settori si affronta una crisi proprio di personale. Esattamente, sono gli anni dello sviluppo impetuoso della pesca. Il canale di Sicilia a quei tempi, fino agli anni 90, è ricchissimo di pesce. I mazaresi, i siciliani hanno poca voglia perché, come sappiamo, è un mestiere durissimo, e l'armatore scova questa alternativa, e ovviamente arrivano i primi, seguiti poi dai parenti, dai cugini, come accade poi per ogni processo migratorio. Insomma, Mazara diventa inevitabilmente ancora una volta, se vogliamo, nella storia, visto che non è la prima volta nella grande, straordinaria storia siciliana, un punto di transito, di aggregazione. Ecco, 20 anni dunque, e tu l'hai visitata di nuovo recentemente, qual è la sensazione? La sensazione, malgrado la vulgata giornalistica reciti che tutto funzioni a meraviglia, anche andando un po' ad approfondire i vari contributi di sociologi, antropologi, è che ci sia un'integrazione a metà. cioè le due etnie, chiamiamole così, si sfiorano, ma in realtà non si incontrano. Ci sono dei posti dove frequentati esclusivamente da tunisini, vedi caffè, e degli altri frequentati esclusivamente dai mazaresi. Due sociologi siciliani l'hanno definita una segregazione morbida, che mi pare un bel termine, un po' forte, ma probabilmente veritiero, e che ci deve stimolare poi a individuare i punti di frizione, cioè le cose che finora non sono andate per il verso giusto, per correggerle e trovare dei modi per favorire sempre di più l'integrazione a questo punto della seconda generazione, perché è passata, una generazione coincide con un quarto di secolo e siamo già ben oltre. In Italia sembriamo ricordarci dei temi dell'immigrazione, per lo più, non solo in Italia, in realtà, durante le fasi più critiche. La storia è diversa, la storia è appunto di un continuo stratificarsi di migrazioni. Anche di questo abbiamo parlato con Karim Annaci, che è professore universitario, tunisino anch'egli, insegna lingua araba all'Università di Catania nella sede di Ragusa. Sentiamo un po' cosa ne pensa della Mazara del Vallo, visto da un intellettuale però appunto di lingua araba. Effettivamente la comunità tunisina di Mazara del Vallo è una delle prime comunità immigrate in Italia ed è molto importante dal punto di vista economico perché rappresenta in qualche modo il pilastro dell'economia della città, ma nonostante ciò le varie amministrazioni che si sono susseguite nel governo della città sembra non aver mai visto un immigrato. In altre parole, loro non hanno una politica locale di integrazione. Quello che bisogna dire è che c'è un terreno fertile, i mazaresi sono aperti e disponibili e lo stesso anche i tunisini. Si tratta di immigrati, di autoctoni che non conoscono integralismi, che appunto sono pronti per un processo di integrazione, ma purtroppo è un processo di integrazione che dipende anche dalla politica locale che finora è stata sorda e cieca, possiamo dire. Quello che c'è come iniziative dipende soprattutto da una sorta di precarietà, di tanto in tanto attraverso un progetto finanziato dai fondi europei o da organismi fuori dal comune e qualche volta anche dal comune, ma il comune in quanto tale non ha promosso l'integrazione se pensiamo che l'integrazione debba passare necessariamente attraverso la partecipazione. Se non c'è partecipazione dell'altro, il dialogo diventa monologo. Se non c'è partecipazione delle comunità immigrate, e questo avviene anche a livello nazionale, non possiamo costruire la società italiana di domani che ormai è plurale, ma purtroppo a livello locale, per quanto ci riguarda, come a livello regionale e nazionale, manca quella partecipazione che è la chiave della cittadinanza della futura società italiana. Integrazione vuol dire scuola, a mio avviso, e non credo solamente mio. Certo, l'integrazione passa anche e soprattutto attraverso l'integrazione, l'inserimento scolastico e una particolare attenzione ai minori stranieri, ma anche da questo punto di vista purtroppo il comune di Mazara del Vallo è assente. Quello che c'è invece sono le scuole che spesso sono abbandonate al loro destino, ripeto, scuole gestite anche da presidi e insegnanti mazaresi, quindi aperti all'integrazione, che riescono di tanto in tanto ad avere un finanziamento PON per promuovere dei progetti di integrazione. Ma si sa, i progetti hanno un inizio e una fine. Per esempio c'è stato un progetto che continua in modo precario, in realtà il primo circolo didattico di Mazara del Vallo, in cui alunni di origine tunisina trovano nel piano dell'offerta formativa anche la possibilità di imparare l'arabo e gli alunni autoctoni anche loro partecipano a questi corsi di arabo, oltre all'attività di didattica interculturale. E quindi il fatto di trasformare la presenza degli arabi in una opportunità che dà qualche lingua in più, secondo me è molto positivo. Purtroppo questo progetto è stato finanziato per un anno o due dal Ministero della Pubblica Istruzione e poi è stato abbandonato. Qui abbiamo un perfetto esempio in cui sono i musulmani che vogliono integrarsi ed è lo Stato laico o lo Stato comunque italiano, lo Stato che li ospita, che impedisce in qualche modo l'integrazione. Perché abbiamo cercato di convincere le famiglie tunisine di lasciare la scuola tunisina di Mazara del Vallo e di iscriversi direttamente nella scuola italiana. Molti l'hanno fatto, abbiamo promesso naturalmente la lingua araba che dava la scuola tunisina, molti l'hanno fatto spostando i loro figli, ma sono stati traditi appunto dalla mancanza di un processo duraturo di integrazione che prevede sia la lingua araba che la lingua italiana. Nelle scuole di frontiera si studia la lingua del vicino, che sia il francese, il tedesco, le lingue slave come lo sloveno. A sud l'arabo rimane la lingua dei poveracci. 30 minuti in cronaca. Nelle scuole di frontiera in generale si studia la lingua del vicino, dico frontiera geografica, mi riferisco naturalmente alla frontiera nord-occidentale con la Francia, quella nord-orientale col mondo tedesco, ma anche con quello slavo. Effettivamente, Mariano, nel sud, nella frontiera meridionale, quella sul Mediterraneo, l'arabo di fatto non esiste, la lingua dei poveracci è la lingua che tendenzialmente va evitata, ma ancora una settimana fa qui parlavamo dei numeri del Mediterraneo, che al di là di questa crisi specifica drammatica resta peraltro da oltre 2500 anni un bacino commerciale formidabile. La tua esperienza, vuole dire, corrisponde questa mia sensazione oppure sono solamente una prospettiva distante? No, corrisponde esattamente negli stessi termini di cui ne parlavi tu. E l'insegnamento dell'arabo in Sicilia, nel sud, è un insegnamento negletto, poco praticato, malgrado il bacino del Mediterraneo sia un'area in forte espansione economica. Spesso ci si dimentica che la Tunisia è cresciuta ogni anno, il PIL della Tunisia cresce di quasi il 5% l'anno, adesso si vedrà dopo la rivoluzione di Gelsomini, però è un'economia molto forte e così anche le altre economie sono in piena fase espansiva. Il sud, che soffre invece di una crisi ormai non più congiunturale ma strutturale, dovrebbe agganciarsi a quei mercati. È molto faticoso farlo anche per gli handicap legati alla lingua. Io ho voluto capirne di più e ho intervistato un professore della Cattolica di Milano, un islamista, insegnante di arabo, che si chiama Paolo Branca, e mi diceva che degli studenti molto brillanti che lui ha avuto nel corso del tempo alla Cattolica di Milano, che quindi parlano correntemente l'arabo e conoscono la cultura araba, non sono potuti rimanere all'università, non hanno potuto proseguire gli studi malgrado fossero appunto molto brillanti, e sono andati a fare i dottorati nelle università sparse per l'Europa e anche negli Stati Uniti. In questi paesi, in questo momento, ripeto, Tunisia e Algeria li ho visti di persona, l'Egitto so quello che arriva attraverso i reportage. Non sono paesi in disordine, non sono paesi che mettono le persone in condizione di dire qui non si può più vivere, vado via. Anzi, si ha la percezione che qui si voglia effettivamente innovare per starci e vivere una qualità della vita di molto migliore. Breve riflessione anche di Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, che ci riporta dunque al tema che stiamo affrontando questa sera. Se da una parte c'è un fenomeno ovviamente impressionante, drammatico in certe circostanze, intorno però c'è un mondo, ci sono delle possibilità, degli interessi. La rivoluzione dei Gelsomini, che è stata citata più volte, Mariano, la rivoluzione dei Gelsomini è una rivoluzione di giovani. I giovani che ha incontrato, i giovani arabi che ha incontrato a Mazara del Vallo, che ne pensano? I giovani arabi stigmatizzano un po' l'atteggiamento dei siciliani. Molti lamentano il fatto, per esempio, che nessuno a Mazara, passati 30 anni dalla presenza nordafricana, parlino ancora almeno una parola di arabo. Quindi i siciliani, come sai, poi sono sì aperti al mondo, ma hanno questa tendenza a rinchiudersi e non si sono aperti alla lingua araba e anche a un linguaggio gergale iniziale, proprio perché non ne sentono nessuna esigenza. Ecco, ma normalmente, come dire, è anche un po' un refrain: chi arriva deve imparare la lingua, chi arriva deve imparare i costumi. Insomma, perché i mazzaresi dovrebbero imparare l'arabo? Ma imparare l'arabo no, ma ci sono delle parole tra l'altro siciliane. Mazara, per catalogare i tunisini, dicono shaloma. Shaloma significa in siciliano vocio confuso, canto preghiera, e viene dall'arabo salam. Cioè noi, oltre ad avere i cromosomi arabi siciliani, abbiamo tantissime parole. Il lessico siciliano deriva in parte anche da quello arabo, e quindi basterebbe approfondire un po' per capire quanto profondi siano i collegamenti culturali tra la Sicilia e il Nord Africa. Però questo elemento non viene enfatizzato, non viene probabilmente neppure ricordato. Ha ragione Annaci quando dice: ma è necessario, sarebbe necessario, come dire, che qualcuno si facesse carico di agitare culturalmente queste cose, di ricordarle e quindi sottolineare gli elementi, e sono tanti, che uniscono le due comunità. Ecco, questo direi che però è un compito classico delle amministrazioni, nel senso che magari i pescatori mazzareschi, che immagino abbiano giornate piuttosto piene e impegnative, devono anche caricarsi del compito sociale di costruire l'integrazione. Forse un po' troppo. Sì, è un po' troppo. Spetterebbe alle amministrazioni locali, che fino a qualche anno fa sono stati totalmente disattenti, cioè non si sono concentrati su questo problema. Prova ne è che la Casba di Mazara, il centro storico che fu abbandonato dai mazzaresi nel corso degli anni 70 e 80, un luogo insalubre, oggi è abitato soprattutto da tunisini, e soltanto l'ultimo sindaco, Nicola Cristaldi, che è stato eletto un paio di anni fa, si è fatto carico di in qualche modo rendere questo luogo più accogliente, con nuovi impianti fognari, energia elettrica, acqua, con nuove condutture idriche, proprio per renderlo un posto non solo ospitabile, ma un posto attraente dal punto di vista turistico, perché la Casba di Mazara ha un impianto arabo, un impianto urbanistico arabo, è un posto di grandissimo fascino, che in qualche modo però fino a qualche anno fa era stato rimosso dalla coscienza collettiva dei mazzaresi. Ecco, tu sei in queste settimane, diciamo pure che fai la spola tra appunto la redazione del Sole e le isole, la tua Sicilia, ma anche l'ultimo avamposto di Lampedusa. Vorrei anche una tua riflessione sull'accordo che è stato raggiunto, dunque nelle ultime ore, l'accordo con la Tunisia, a proposito del quale proprio il vescovo di Mazara del Vallo, sempre Monsignor Domenico Mogavero, dice finalmente un accordo che fa uscire dallo stallo. Ecco, nelle amministrazioni comunali, pubbliche della Sicilia, diciamo, questa idea è condivisa? Si è condivisa, anche se penso che possa apparire paradossale, ma la Sicilia è stata investita in modo molto marginale da questa migrazione. Come sappiamo, l'avamposto è Lampedusa, tutto lo psicodramma si è consumato a Lampedusa. In Sicilia, a Mazara, di questi tunisini, dei 25.000 tunisini arrivati da gennaio a oggi a Lampedusa, praticamente non ce n'è nessuno. Insomma, nessuno si è fermato. L'emergenza non passa in realtà attraverso la Sicilia, se ovviamente escludiamo Lampedusa. Quindi è ancora una volta, e ci avviciniamo alla conclusione, questa riflessione rinnova l'esigenza non tanto di politiche di emergenza in questo caso, ma di politiche di continuità. Concludiamo appunto su Mazara del Vallo, questo posto anche geograficamente formidabile, proiettato verso la Tunisia. Hai detto che ci sono finalmente dei segni di una presa di coscienza. Esatto, sì, anche se tardiva. E la rivoluzione Gelsomini e i suoi movimenti nordafricani, forse questo sta diventando di opinione comune, sono una straordinaria opportunità per la Sicilia. È come se la Sicilia si stesse risvegliando da un torpore che dura da troppo tempo, e quindi vedremo nei prossimi anni come si evolverà la situazione e che nuovi legami riusciremo a stabilire con questo popolo, che appunto è proprio lì di prossimità, a poche decine di chilometri dalle coste della Trinacria. Grazie a Mariano Maugeri, continuate a seguirlo sulle pagine del quotidiano, naturalmente sul web, su Radio 24. Noi continuiamo a tenere d'occhio il sud, il nostro sud, e con questo mi riferisco non tanto appunto alla Sicilia e alla fine della nostra penisola, ma a quello spazio enorme che in maniera paradossale diventa solamente un luogo di paura, mentre ci piace continuare a pensare che non solo è un luogo di cultura, è un luogo certo di complessità, di grandi possibilità, di un'avventura storica plurimillenaria che di sicuro non si andrà a concludere in queste settimane difficili. Siamo alla fine, mi resta solo da ringraziare Fabio Cantadori questa sera in regia, lasciarvi come sempre all'appuntamento con Mebius. Buon fine settimana a tutti.